nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica e bene arrivate a Nessuna è perfetta, la trasmissione che vorrebbe dare la sveglia alle nostre domeniche. La domenica dovrebbe essere la giornata del relax, ma spesso invece ci portiamo a casa anche un po' del lavoro della settimana. Ecco, come dice il titolo, Nessuna è perfetta si propone di parlare dei temi che riguardano il nostro lavoro, la carriera, i colleghi, ma con un po' di relax, perché questa storia dell'essere perfette, multitasking, si è rivelata un'enorme fregatura. E allora vediamo come andare d'accordo con i colleghi, vediamo come farci aumentare lo stipendio, chiediamo consiglio a uomini e donne, perché insomma anche il consiglio degli uomini, anche copiare qualcosa da loro può essere utile. L'importante è aver presente che la perfezione inseguita a prezzo di stress, ecco, non è proprio necessaria. Parleremo anche dei fatti della settimana e ascolteremo l'opinione delle donne che ci interessa ascoltare perché hanno qualcosa da dire. Partiamo questa settimana riflettendo su due donne che invece apparentemente perfette lo sono, ma invece non lo sono nemmeno loro, hanno i loro punti di debolezza e come se ce li hanno, ma sono riuscite a trasformarle in due punti di forza. Stiamo parlando della regina Elisabetta, che compie 63 anni di regno, ha superato la regina Vittoria, e di Angela Merkel. Integrità, calma, buon senso, longevità. Queste sono le qualità che accomunano queste due donne di potere. Sta di fatto che l'integrità, la calma e il buon senso sono qualità che nelle donne piacciono, mentre spesso in un leader maschio si cerca l'irruenza, si cerca il carisma, si cerca una personalità, come dicono gli americani, larger than life. Nelle donne invece si ammirano l'equilibrio, la capacità di mantenere un atteggiamento di ascolto e soprattutto, insisto, l'integrità. E questa, secondo molti giornali britannici, la qualità che ha tenuto fermo il rispetto dei sudditi nei confronti di Elisabetta II, senza di scandali personali, per esempio, anche se i familiari di Elisabetta II hanno dato un certo contributo. Non c'è nessuna e nessuno, testimonial del Novecento, che abbia conosciuto le persone che ha conosciuto lei, da Churchill a Marilyn Monroe a sei papi. Anche per Angela Merkel l'integrità ha giocato un ruolo fondamentale nel conquistare il cuore dei tedeschi. È a capo del suo governo dal novembre 2005 e se dovesse ricandidarsi per il quarto mandato sarebbe il capo dell'esecutivo più longevo di sempre, eguagliando il primato del suo predecessore Helmut Kohl. Di tutte e due, di Angela e della regina Elisabetta, si è detto che mancano di empatia, è il loro punto debole. E in effetti per la regina Elisabetta il momento più difficile del suo lungo regno è coinciso con la morte di Lady Diana, perché allora si disse che la regina non era stata capace di interpretare il sentimento popolare. Quanto ad Angela Merkel, sappiamo bene che negli ultimi anni la crisi greca e il modo in cui lei ha voluto trattarla, e poi anche negli ultimi mesi l'immigrazione, ne avevano fatto il bersaglio dell'Europa, no? La regina crudele, senza cuore. Ebbene, sia la regina Elisabetta che Angela Merkel sono state capaci di trasformare questo loro lato debole, punto debole, questa loro debolezza, in una ripresa, in una nuova stagione. Elisabetta ci ha messo il suo tempo perché ha impiegato parecchio, ma Angela Merkel ha usato invece tutta la sua leadership di politica e a sorpresa ha annunciato la svolta sulla immigrazione, da vera leader. Punti in comune, come vedete, ce ne sono parecchi, ma le due, la regina Elisabetta e la cancelliera Angela Merkel, non si somigliano per niente, anche perché hanno ruoli totalmente diversi. La forza di Elisabetta riposa su un principio: il suo potere deriva dal fatto che non lo usa mai. Angela Merkel, invece, il suo potere lo usa, e come? Ma riesce sempre ad apparire come il capo di uno staff, di un team, non la donna sola al comando. E spesso, volutamente, lascia la scena agli altri, per esempio a Schäuble. Lascia la scena agli altri, ma tanto si sa che decide lei. Ecco, dolcemente complicate pure loro, pure la regina Elisabetta e Angela Merkel. Quando io penso a questo abbinamento, l'avverbio dolcemente e complicate, penso sempre a una canzone che mi fa stare bene con me stessa. Credo che faccia l'effetto a molte di noi ed è una canzone che io ho il piacere di ascoltare. Indovinate un po' con chi? Ma con l'uomo che ci ha pensato, con l'uomo che ci ha visto così dolcemente complicate, col falco e il gabbiano che sentite tutti i giorni su Radio 24, insomma con Enrico Ruggeri. Dolcemente complicate, Enrico. Buongiorno. Beh sì, sicuramente. Questa è una canzone sulle speranze disattese delle donne, no? Noi uomini spesso siamo un po' come i politici in campagna elettorale, cioè siamo bravissimi a conquistare le donne, poi noi italiani credo siamo i migliori del mondo a mostrare un lato meraviglioso di noi che forse non abbiamo neanche, insomma siamo dei gran corteggiatori. Poi una volta eletti e quindi una volta accettati da una donna, una volta che si forma una coppia temporanea o definitiva che sia, in qualche modo spesso non ci mostriamo all'altezza di quello che avevamo lasciato intravedere nel corteggiamento. Falco e Gabbiano, tu come hai fatto a capire che siamo proprio così? Intanto ascoltandole un pochino le donne, insomma, anche per motivi non edificanti, però ascoltare una donna è una cosa che l'uomo fa molto meno di quello che si pensa. Rarissimo, è vero. E quindi insomma ascoltare, sentire una serie di istanze anche o appunto di delusioni che ho cercato di poi tradurre in musica. Le sentiamo qualche piccolo pezzo. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui forse. E io mi emoziono sempre quando le sento queste parole. Ci fermiamo qui, adesso il traffico. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta e parliamo con una role model italiana, una delle ministre con responsabilità fenomenali, la prima donna ministra della difesa in Italia, Roberta Pinotti. Buona domenica ministra. Grazie, buona domenica a tutti. Dunque, il titolo della trasmissione Nessuna è perfetta lancia da questa domenica il messaggio per cui facciamo tutto quello che dobbiamo, lo facciamo bene, ma senza l'aspirazione alla perfezione, che è un po' una fregatura. Il multitasking è secondo me una perversione che ci ha fatto accumulare stress francamente inutile. E però mi piacerebbe con lei ragionare su queste due figure di donne che sono apparentemente perfette, anche se in realtà hanno i loro punti deboli, sono a detta di tutti poco empatiche. Però sia la regina Elisabetta che la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno acquistato nel tempo, 63 anni addirittura la regina Elisabetta, il rispetto delle dei sudditi, come si dice in Gran Bretagna, e dei cittadini tedeschi in Germania, per la loro integrità, per la loro calma, per il buon senso che hanno anche dimostrato. E allora le volevo chiedere, ma per essere una donna rispettata nel mondo della politica bisogna essere un po' diciamo sotto traccia, non fare la prima donna? Agli uomini è consentito essere larger than life, no? Fare gli attori, i primi attori sulla scena. Delle donne si apprezza di più la calma, l'integrità e la capacità di stare un passo indietro anche quando sono veramente potenti? Non saprei dire se si apprezza di più questa caratteristica. È vero che alle donne si perdona pochissimo, si perdona meno, quindi da questo punto di vista l'uomo che a volte deborda, che eccede, diciamo, nella leadership, viene guardato col sorriso o comunque è con l'idea che dimostra in questo l'essere un grande leader. Sulle donne l'occhio è ancora molto più critico. Però secondo me, soprattutto parlando sia della regina Elisabetta che di Angela Merkel, io trovo molto calzante la frase con cui è stata introdotta la trasmissione, cioè il rischio per noi, per tutte, è l'idea di perseguire la perfezione. Invece mi sembra che nella leadership sia della regina Elisabetta che di Angela Merkel si è fatta attenzione al fatto che esistono i limiti e si sono gestiti questi limiti. Dal punto di vista della regina Elisabetta, proprio il suo essere discreta, il suo essere accorta, l'aver accompagnato per 63 anni un regno, cambiando anche il suo modo e la sua presenza e facendo attenzione, diciamo, quando doveva esserci una presenza ed un'assenza, ha, come dicono molti oggi in Inghilterra, salvato la monarchia. Angela Merkel c'è ed è forte nei momenti in cui deve far sentire la sua voce, come nelle ultime scelte che ha fatto, che sono sicuramente il segno di una grandissima leadership. Da politica, e parliamo qui di Angela Merkel, che cos'è che l'ha impressionata, l'ha colpita di questa svolta sull'immigrazione? Perché un politico è capace di rischio, il vero politico è capace di rischio, è capace di scelte che possono comportare anche una sconfitta, e sicuramente Angela Merkel è una politica di razza. L'ha dimostrato appunto anche in questo caso. Quindi il coraggio, la capacità di correre un rischio, è questo che fa di Angela Merkel un vero politico? Il coraggio di correre rischi, ma anche la scelta dei tempi, il tempo. Un leader o una leader sono coloro che riescono a capire quando è il momento di svoltare. Secondo me in questo episodio, in questa vicenda legata ai migranti e ai profughi, c'è stato un episodio centrale, il momento in cui la cancelliera ha avuto una protesta molto forte e lei non si è spaventata, ma anzi ha ribadito con forza che quel tipo di atteggiamento non era un atteggiamento degno del popolo tedesco e in quell'atteggiamento la Germania non si riconosceva. Secondo me in quell'episodio ha capito che non far sentire forte la propria voce su questo tema poteva far dilagare il populismo, la non accettazione, anche il razzismo che usciva fuori da alcune di queste voci di protesta, e quindi ha deciso che doveva porre un argine con una sua forte leadership, anche, io penso, in una comprensione più complessiva. Il Pentagono dice ci vorranno 20 anni a risolvere questo tema, è difficile adesso immaginare di fare il conto degli anni, ma certo con le crisi e i conflitti che abbiamo di fronte a noi e sapendo quanto ci vuole per ricucire i territori quando hanno avuto guerre, distruzioni e situazioni di conflitto, certamente noi abbiamo davanti degli anni, quindi l'idea che non gestisce questo fenomeno e lo lasci, diciamo, gestire ai populismi o a chi soffia sulle paure, era chiaro che sarebbe diventato un'Europa che non aveva più un volto, che non aveva più la possibilità di presentarsi al mondo con la sua propria storia di civiltà. E secondo me il combinato disposto dell'episodio puntuale e della comprensione globale è stato quello che ha fatto scattare, diciamo, questa importante presa di posizione. La conferma che abbiamo davvero una leader formidabile, globale. Senta, Ministro, due ultime domande. Una personale. Nel libro che ho scritto, Il potere delle donne, lei ha confidato di aver anche lei fatto una scelta rischiosa, coraggiosa. Non volevano che si candidasse dopo la sconfitta alle primarie di Genova. Lei invece ha detto io ci provo e ha vinto. Quanto di questa capacità di rischio, di affrontare il rischio, devono ancora imparare le donne? Le donne hanno paura di rischiare, vero? Ma le donne, a volte anche gli uomini, insomma, non soltanto le donne, però certamente in genere è più facile per una donna quando ha una sconfitta, quando ha un momento difficile, lasciar perdere, richiudersi, diciamo, nel privato, nei propri affetti, in una dimensione più tipicamente femminile. Per me è stato effettivamente un momento di scelta. Quando, dopo aver perso le primarie a sindaco di Genova, sapevo che un'altra sconfitta sarebbe stata la fine della mia carriera politica, ne ero assolutamente cosciente, e tanto che i miei sostenitori dicevano no, cerca un'altra strada, vedi se riesci a trovare una strada in cui qualcuno ti propone un incarico? E io ho detto no, perché senza consenso non si fa politica. Quindi se quell'episodio è stato un episodio lo dimostreremo vincendo, e altrimenti se perderò di nuovo è chiaro che mi dedicherò a fare altre cose. E quindi è stato certamente un rischio, ne ero assolutamente consapevole, perché poi dopo una sconfitta è più difficile presentarsi e provare a vincere, però ce l'ho fatta, ho vinto molto bene, quello è stato certamente, ho vissuto tutto quel periodo consapevole del rischio che correvo, ma anche sapendo che se non corri dei rischi non riesci effettivamente a fare dei passi in avanti. Appunto, il punto è non essere perfette, ma correre dei rischi sbagliando, si paga un prezzo. Si può anche perdere, sapere che a volte si vince, a volte si perde, però non fermarsi. Se uno ha una grande passione, se sente di avere delle cose da dare al mondo, se sente che quell'incarico con quel servizio che può fare alla popolazione può essere utile e ha una passione per farlo, deve fare. Io ho sempre detto che seguire le proprie passioni è l'elemento più importante per poter davvero realizzare qualcosa di buono per se stesso e per gli altri. Questo è l'invito che faccio a tutti. Senta Ministro, da Ministro della Difesa lei è perfettamente consapevole che, come si diceva, il fenomeno immigrazione non finirà né oggi né domani, la Marina italiana è stata coinvolta. Che cosa succederà secondo lei? Quali informazioni ha, che può condividere con noi, di quanto succederà nei prossimi mesi nell'area del Mediterraneo? Quante persone dobbiamo aspettare che arrivino in Italia? Parliamo di Italia, poi quelle che arriveranno nei Balcani vedremo che, come se le divideranno, ma insomma da noi che cosa succede? Sono state fatte diverse stime. Noi complessivamente abbiamo avuto quest'anno un numero di migranti simile a quello dello scorso anno. Invece altre nazioni hanno avuto dei numeri molto incrementati, perché mentre l'anno scorso si passava soprattutto attraverso il mare, quest'anno si è aperta anche questa via di terra. I numeri saranno certamente ancora numeri importanti, però è difficile oggi prevedere e fare delle previsioni senza immaginare quali sono le crisi che puoi cominciare a chiudere, perché di fronte alla domanda fatta a un bambino siriano perché viene a 13 anni ha risposto: ma se non finisce la guerra in Siria noi continueremo a scappare, se riuscirete a far concludere quel conflitto noi in Siria vorremmo tornare. E nella semplicità della risposta di un ragazzino ci sta una saggezza profondissima. È chiaro che di fronte a questo flusso o risolvi delle contraddizioni, alcune diciamo recenti, altre invece che hanno radici profonde, storiche, oppure il flusso non si ferma, perché chi pensa di mettere in salvo i propri figli e la propria famiglia dalla morte, dalla guerra e dalla distruzione continuerà a scappare, quindi non ci sono possibilità di fermarlo né con muri, né con filo spinato, né con blocchi navali. E quindi va gestito questo fenomeno accogliendo chi ha diritto e rimpatriando chi non ce l'ha, ma nello stesso tempo oggi il punto centrale per la comunità internazionale è risolvere la questione, risolvere la conflittualità, questo è certo. E questo speriamo di vederlo affrontato con più concretezza di quanto sia stato fatto finora nei prossimi mesi. Grazie Ministro Pinotti per aver inaugurato la prima puntata di Nessuna è Perfetta e buona domenica. Grazie, buona domenica a tutti. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, parliamo questa volta di un problema serio che si è presentato prima o poi nella vita di tutti noi: l'aumento di stipendio. Ho ricevuto questa lettera. Lavoro da 10 anni nella stessa azienda, mi trovo bene, mi sento apprezzata, ma l'unica volta che ho chiesto un aumento di stipendio, 4 anni fa, c'era la crisi e mi hanno risposto che, pur meritandolo, l'azienda non poteva permetterselo. Però una settimana fa ho scoperto che un mio collega pari grado, molto bravo nelle pubbliche relazioni, ha ottenuto di recente un discreto aumento di stipendio. Sono arrabbiata e delusa. A me le pacche sulle spalle, a lui i soldi. Che devo fare? Ho pensato di cercare altrove, ma amo il lavoro che faccio e mi piace il mio team. Si ferma incerta e arrabbiata. E io allora ho pensato di chiedere a due bravissimi soggetti che ora vi presento. E che consigli diamo a incerta e arrabbiata? Vi presento subito Claudia Parzani, presidente di Valore D, avvocata e partner di Linklaters, una degli avvocati d'affari più apprezzati d'Italia, secondo il Financial Times, e Carlo Purasanta, CEO, come si dice adesso, di Microsoft Italia. Allora, benvenuti. Claudia, cominciamo. Che consiglio diamo? Come si fa a farle avere questo aumento di stipendio a incerta e arrabbiata? Io ad incerta ed arrabbiata, intanto grazie, buongiorno a tutti, ad incerta ed arrabbiata darei il primo consiglio che darei, ovviamente, di essere meno incerta, che ovviamente ha il... è nel posto che ama, fa il lavoro che le piace, sta col team che vuole, quindi quelli sono i team che lavorano meglio anche per le aziende. Quindi le direi che è tempo di muoversi per il suo aumento di stipendio e probabilmente... Ma di non mollare l'azienda? No, l'azienda non è tempo di mollare le aziende, sì. Di posti che piacciono e di lavori che piacciono e danno soddisfazione. Certo, deve colmare quella parte che le manca. E come la può colmare? La prima cosa è capire chi è la persona a cui deve rivolgersi, la porta a cui deve bussare, cioè quella, la porta giusta. La seconda cosa è preparare al meglio la sua richiesta di aumento di stipendio, perché è anche importante come le cose vengono presentate, è importante ricordare a chi tu hai davanti che cosa hai fatto, quando hai fatto la differenza, quando per quel cliente hai fatto una cosa importante, quando l'ha fatta per un tuo collega. Quindi essere capace di raccontare la storia dentro l'azienda che lei vive, che magari non tutti vedono con gli stessi occhi o non hanno la possibilità di vedere tutti i giorni. E la terza cosa le suggerirei di non menzionare o menzionare il meno possibile il pari grado di cui lei parla nella lettera. Questo perché secondo me è sempre meglio. Intanto pari grado non vuol dire persone identiche e ognuno ha una sua professionalità e una sua storia. E poi secondo me è sempre bello non mettersi in correlazione con gli altri, ma mostrare chi sei, la propria unicità. Quindi il pari grado potrebbe essere al massimo, secondo me, solo uno spunto di partenza. Cioè non dire quello lì ha avuto lo stipendio, no. Perché come dice è molto bravo nelle pubbliche relazioni, impara anche tu a fare pubbliche relazioni. Mai partire da quell'altro ha fatto questo, ecco, questo non sarebbe il punto di partenza da cui io le suggerirei di iniziare. Carlo Purasanta, da amministratore delegato di Microsoft Italia, qual è la cosa che si sbaglia, che lei ha visto nella sua attività professionale? L'errore che si commette quando si chiede un aumento di stipendio e non lo si ottiene. Buongiorno a tutti. Diciamo che già questa situazione non è poi così sorprendente, perché l'abbiamo vissuti, io ne ho vissute tantissime di queste esperienze ed è vita vera. Allora, cosa succede? Le donne e gli uomini hanno un atteggiamento diverso rispetto alla carriera in generale, nel senso che non hanno la stessa attitudine nel fatto di chiedere di più. Allora, poi è difficile generalizzare perché non è vero per tutte le donne o per tutti gli uomini, però mi è capitato spesso di avere degli uomini che vengono in ufficio e che ti dicono: guarda, io è un anno che faccio questo lavoro, sono già pronto per il prossimo, quando invece un anno magari è troppo presto e magari hanno ancora delle cose da imparare, quindi non vuol dire che non abbiano le capacità, ma si proiettano subito molto velocemente, c'è quasi questo spirito un po' più competitivo. Le ragazze e le donne magari aspettano un pochettino di più che gli si dica che meritano un passaggio. Questo allora è un po' generico, però è mediamente vero. Questo fa sì anche che poi in una situazione come questa che è successa a questa ragazza, magari osano chiedere di meno. E quindi magari lo pensano ma non lo dicono. Allora, dato che ognuno ha il suo carattere, quindi può essere vero per una donna o per un uomo, però se si è in questa situazione qui, bisogna preparare molto bene lo spunto di discussione con il proprio manager. Se ci si va con un po' di frustrazione, con un po' di emozione che ti prende perché magari non sei abituato o abituata a parlare di queste cose, rischi di passare dei messaggi confusi, cioè un po' di, appunto, esce fuori frustrazione, esce fuori la parte emozionale e non la parte, sì, razionale. Soprattutto se il manager è uomo, poi, perché poi ci può essere anche un manager donna, ma soprattutto se è uomo, l'uomo ascolta di più magari la parte razionale del ragionamento, poi l'emozione deve passare comunque, poi non è che bisogna toglierle. Però bisogna pensare a qual è il filo logico che si vuol seguire, quindi bisogna prepararlo. E io penso che è vero quello che dicevamo prima, che magari se questa ragazza ama l'azienda non deve cambiare azienda, però bisogna anche avere un'attitudine molto aperta sul mercato. Cioè tu devi sapere sempre in ogni momento cosa vali, anche confrontandoti con delle cose esterne. Quindi mai rinunciare ad andare a fare un colloquio con un'altra azienda, per esempio, non perché non è un tradimento verso la propria, è per capire se le tue qualità sono apprezzate e apprezzabili da altri. Costruisci la tua self-confidence, no? La sicurezza di avere un background professionale importante, e poi ti mette in situazione di comfort quando discuti con il tuo capo e dici: guarda, io penso di meritare questa cosa e questa cosa, l'ho verificato andandomelo a cercare sul mercato, so che ho un valore sul mercato. Ho delle offerte eventualmente anche da altri, quindi cioè, bisogna anche avere questa capacità di negoziare, però rimanendo con un filo logico ben studiato, senza emozionarsi. Guardiamo al futuro. Se incerta e arrabbiata decide di essere un po' più sicura e meno arrabbiata rimanendo nell'azienda, che cosa deve fare per arrivarci finalmente a questo benedetto aumento di stipendio? Se incerta e arrabbiata sceglie la sua azienda, sicuramente quello che può fare per se stessa, anche per i passi futuri, quindi anche per altre aziende, cominciare a lavorare sul proprio network. E il proprio network è quello interno aziendale ed è correttamente, come si diceva, anche quello esterno, che ti permette poi di misurare quanto tu vali rispetto al mercato. È qualcosa che, anche qui generalizzando, gli uomini fanno bene. Gli uomini dedicano tanto della loro giornata al lavoro, ma una parte di questo lavoro che loro fanno è lo sviluppo delle relazioni. Quindi concretamente lei dovrebbe fare un po' di telefonate in giro e dire: guarda, anche fermarsi alla macchinetta del caffè ogni tanto, anziché mangiare davanti al computer o bere un caffè in piedi, perché ovviamente bisogna conciliare tutto e c'è il tema tremendo del multitasking, cioè il tema tremendo di dover correre a casa, prendere i bambini e tutto. Però investire, perché fermarsi al caffè e chiacchierare con qualcuno forse è una cosa da fare molto più spesso per una perché donna, consente di farti conoscere, ma consente anche di capire, perché il mio secondo consiglio sarebbe: chiedi feedback, impara anche a capire come ti vedono gli altri. Quello che tu è molto difficile certe volte riconoscere che gli altri non ci vedono come noi ci percepiamo, o non hanno la stessa percezione di un fatto. Quindi tu hai fatto qualcosa, credi di aver conquistato un cliente, ma l'altro non la vede nello stesso modo. E il terzo consiglio che ci andiamo alla chiusura? Il terzo consiglio è quello di confrontarsi con un caro amico, un fidanzato, un marito, chiunque, un maschio, perché secondo me le donne oggi devono essere consce del fatto che culturalmente siamo state cresciute con un po' di ambizione in meno, con un po' abbiamo un minore comprensione del nostro valore. E dunque andiamo appunto da Carlo Purasanta. Che cosa in questa specifica situazione incerta e arrabbiata può copiare da un uomo? Qualcosa che gli uomini sanno fare molto meglio di noi donne in questa circostanza. Io sottolineerei l'aspetto del feedback, cioè non tutti i manager fanno poi così bene il proprio lavoro. Ok, cosa vuol dire? Quando tu hai una responsabilità di una persona, dovresti dargli continuamente feedback, che è il più bel regalo che si possa fare a un collaboratore o una persona anche da un punto di vista orizzontale, o anche al proprio capo. Cioè dire che cose io vedo in te come capacità o anche come area di miglioramento. Dato che non tutti i manager lo fanno, la cosa che funziona meglio, uomo o donna che tu sia, è di responsabilizzare il tuo capo per darti questo feedback, cioè andarlo a chiedere in maniera strutturata per responsabilizzarlo anche lui stesso sulla tua carriera. Cioè tu dici: guarda, io mi aspetto di arrivare a questo livello qua, mi puoi dire cosa oggi ho nelle mie caratteristiche che mi permettono di arrivarci e che cosa devo migliorare e cosa devo dimostrare per mettere a posto queste cose per arrivare a quel livello lì, sia soldi o carriera? È una cosa totalmente diversa dal bussare alla porta e dire: sto facendo bene? Non è così. È molto più strutturato, lo scrivi, lo analizzi, lo discuti con altri. Ripeti un po', che cosa bisogna dire? Ma praticamente tu ti fai il tuo piano di sviluppo, il tuo piano di carriera. Dici: guarda, io sono, che ne so, 34 anni, faccio questo background, vorrei fare fra 5 anni questo, fra 10 anni quest'altra cosa. Ecco quali sono le due testate che vedo. Poi una analisi delle tue caratteristiche, quindi forze e anche debolezze, perché abbiamo tutti delle aree di miglioramento, no? Normale, cose che ci siamo sentiti dire, magari difficili a volte da digerire, ma su cui dobbiamo lavorare. Questa chiarezza, questa lucidità, no, dell'analisi che ho fatto sulla mia situazione, permette di fattualizzare la discussione col tuo manager. Con grande apertura tu vai e gli dici: questa è la situazione che io vedo, tu che cosa ne pensi? Sono queste le aree di miglioramento? Come pensi che io possa riuscirci? Come tu mi puoi aiutare a farlo succedere? E dopodiché questa cosa non è una discussione una volta soltanto, ma in maniera regolare. Ogni sei mesi, ogni tre mesi. Poi dipende anche molto dalle aziende, c'è chi crea una struttura un pochino più precisa, c'è chi lo lascia un pochettino più alla volontà. Soprattutto per le donne che dicono magari io ho questo problema, voglio risolverlo, che lo facessero almeno una volta ogni sei mesi, direi anche una volta a trimestre. E poi, come diceva Claudia Parzani, avere qualcuno, un amico di cui ci si fida, il compagno, un fratello sul quale si conta anche per un giudizio professionale, e chiedere consiglio, giusto? Sì, chiedere consiglio e forse chiedere proprio di mettere quel target che noi certe volte non siamo audaci abbastanza per metterci da sole, perché la loro asticella spesso è un po' più alta della nostra. Grazie Claudia Parzani, grazie Carlo Purasanta, tra pochissimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiza, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24, con i suoi inviati, vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. Ogni venerdì, nei GR, in effetto giorno e in effetto notte. Il sabato mattina, nel reportage europeo. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, avete sentito la lettera di incerta e arrabbiata perché lei aveva chiesto un aumento di stipendio tempo fa e l'azienda aveva detto siamo in crisi, non te lo possiamo dare, poi ha scoperto che di recente invece un suo collega l'ha ottenuto. E avete sentito come sul tema si sono espressi due importanti personaggi che su questi temi mille volte si sono confrontati, vale a dire l'amministratore delegato di Microsoft Italia Carlo Purasanta e l'avvocato partner di Linklaters Claudia Parzani, che è anche presidente di Valore D. Ma io vorrei ascoltare ancora su questo tema, sentendo l'opinione di chi per lavoro aiuta uomini e donne a rafforzare la propria identità professionale. Avete sentito tante volte parlare di coach. Ebbene, noi abbiamo in collegamento con noi Carla Ciani, che è una professional trainer e coach, proprio aiuta i manager, i grandi professionisti a avanzare nella loro identità professionale. E buona domenica Carla Ciani, il tema è quello di come superare una sconfitta, ci hanno detto no a un aumento di stipendio, poi però scopriamo che invece a un altro l'hanno dato. Come si fa? Buona domenica a lei e a tutti. La prima cosa che dovremmo fare, che dovrebbe fare incerta e arrabbiata, è uscire dai cancelli dell'autocompiangimento. Mi capita spesso di incontrare donne frustrate, arrabbiate, deluse, ma questo atteggiamento in realtà porta quasi sempre a un autoboicottaggio, quindi parlando della propria delusione, del sentirsi vittima, in realtà comunichiamo agli altri una sensazione non positiva e non costruttiva. Quindi la prima cosa uscire da questa situazione emozionale e spostarsi invece in un'analisi un pochino più razionale, allenarsi ad essere capaci di comprendere qual è il percorso che dobbiamo fare per portare concretamente dei risultati nella nostra vita professionale. Riassumo, primo step, farsi passare la rabbia che non serve a niente. Secondo step, smetterla di pensare di essere vittime di un complotto globale e terzo step, valutare in che cosa siamo brave, in che cosa siamo davvero capaci. Dopodiché il quarto, siamo proprio in chiusura, Carla Ciani, quale sarà? Il quarto è innanzitutto non dare per scontato che gli altri ci debbano dare una valutazione a 360 gradi. Purtroppo noi donne mettiamo tutto insieme, vogliamo un riconoscimento che sia per le nostre competenze, per le nostre capacità, ma come per noi siamo. In realtà quello che noi dobbiamo fare è qualcosa di più strutturato. Portare il valore delle nostre competenze prima di tutto, delle capacità, cioè di quel carattere distintivo che ha prodotto un risultato davvero migliore rispetto alle attese, se così è avvenuto, e soprattutto costruirci e immaginare come potremmo dare sostenibilità alla cosa che noi andiamo a chiedere al nostro capo. Quindi bene, concretamente non solo immaginare, ma condividere con chi ci ascolta un progetto e soprattutto in questo progetto determinare che sostenibilità noi saremmo in grado di dare. In bene, questo senso è molto importante accogliere la valutazione e cercare, come si è detto precedentemente, un modello sistematico di valutazione, ma non solo dai capi, anche da chi è vicino a noi o dipende da noi o certo, valuta, ed è molto importante. A volte le donne hanno una percezione non così razionale, contano, come in questo caso, nel supporto di un team, ma dal punto di vista più femminile, appunto, quindi un pochino irrazionale, devono calarsi un po' più nel concreto e chiedere davvero, ma genuinamente, ai propri collaboratori un parere. Bene. Senza timore che questo possa generare nella mente dei collaboratori un loro, segno di debolezza o di fragilità. Di valore. Grazie. Carla Ciani, e buona domenica. Grazie. Tanto, grazie. Sì. Buona domenica. In chiusura è tornato a trovarci Enrico Ruggeri. Incerta e arrabbiata. Incerta e arrabbiata che non ha avuto l'aumento di stipendio, mentre il suo collega sì. E diceva Claudia Parzani, la presidente di Valore D, spesso dipende anche dal fatto che gli uomini fanno network, vanno a giocare a calcetto insieme, si conoscono. Le donne invece se ne stanno da sole, mangiano un panino davanti al computer e sperano che gli altri si accorgano di quanto sì, lavorano credo bene. Credo che nelle grandi aziende, cioè io non ho una grande azienda, la mia è un gruppo di persone, però guardando le grandi aziende un po' è vero, c'è il calcio unisce molto, è molto importante il calcio per gli uomini, perché andare a giocare a pallone assieme e tornare bambini e tutti assieme è un valore aggiunto che le donne non hanno, cioè la donna non può tornare bambina con le amiche facendo una cosa spesso non stupidotta, ha il tempo, ma aggregativa, non come ha il tempo calcio, perché poi deve correre a casa a prendere poi, sì, a fare tutte le altre cose che il maschio non fa perché sta giocando a calcetto con certo, i colleghi no, mentre la moglie a casa che gli prepara sì no è vero questo. E poi io vengo da un mondo nel quale le aziende sono rappresentate da persone, quindi lavorare per una persona non è come lavorare per un'altra. Per cui la strategia di andare a farsi sentire anche in altre aziende nel mio mondo è un po' perdente, perché si viene a sapere subito, perché mostrerebbe scarso entusiasmo nei confronti. Ma essendo di noi facendo, dolcemente complicate, sì, come sostieni te, siamo anche un po' lagnose, un po' che se piangiamo addosso. Ma quello secondo me è una caratteristica di alcuni esseri umani, uomini e donne, non, cioè quello di piangersi addosso. Forse la donna lo fa in una maniera che viene recepita più fastidiosa da parte dell'uomo, mentre l'uomo quando lo fa com'è il maschio che si piange addosso? Ce lo racconti? È quello che lo facciamo tutti un po', lo faccio anch'io, è quello che in qualche modo vuole essere rassicurato e quindi magari dice, comincio a essere perdo colpi, ma in realtà lo dice, ma è come la donna quando dice sono orrenda e in realtà non pensa di essere spera orrenda, che l'altro gli dica l'altro, ma come sei orrenda, sei bellissima. Quindi è il maschio che dice perdo colpi, cosa si aspetta di sentirsi dentro? Non è vero amore, oppure non è vero capo, non è vero amico mio che stai perdendo colpi, anzi sei più affascinante adesso che 5 anni fa. Insomma sono strategie di vita, sai qual è la cosa secondo me diversa? è che noi ce lo vogliamo far dire, ma sotto sotto non ci crediamo mai, no? Invece voi a ci noi credete. Basta niente, sì, basta una parola e ci hanno risolto la giornata. Grazie Enrico Ruggeri, grazie a voi che siete stati con noi nella prima puntata di Nessuna è Perfetta. Ci ritroviamo qui su Radio 24 ogni domenica mattina alle 10. Buona domenica.